È un ricordo ancora vivo, mi batteva forte il cuore, per la prima volta anch'io prendevo il treno. Ero un bambino educatissimo e banale, ma soprattutto ero testardo ed immortale. E mentre il treno si aggrappava all'Appennino, io stavo a orecchie aperti davanti al finestrino, ad ascoltare attentamente il paesaggio che il babbo mi descriveva, per consolarmi e farmi un po' coraggio. Treno, quanto tempo è passato da quando son sceso da un treno con il mio vestito grigio davanti a un collegio, e così così lasciai dietro di me tutta l'infanzia, gli amici del paese, i nonni, la mia stanza, e andai a sbattere negli angoli più duri di quella scuola ostile, più fredda di un canile. Però la notte era un pulviscolo padano di nebbia, favole e sogni di un Dio che mi parlava da lontano. Treno, quanto tempo è passato che sono scappato su un treno dove mi sentivo perso e diverso, diverso. Ma poi quanti chilometri buttati via per cercare una vita che fosse davvero la mia, e quanti amori lasciati a metà per nascondermi materna di un treno. Treno, treno, quanto tempo è passato, passato, passato, ormai con la chitarra al collo come un amuleto io canto la mia vita senza voltarmi indietro, così mi piaccio e non mi faccio compassione, non la ritroverete la scimmia nel gabbione. Io so volare come un angelo randagio nel cielo di un finestrino, è sempre stato il treno il mio rifugio. Treno, portami con te